troppi tubi, non dir di no, troppi tubi, troppi dubbi, ai tu, ai me, siete tubi, tutti tubi, non dir di no, troppi dubbi. Ti piace restare, ti piace sognare con me.